Boh, benvenuti, puntata numero 19, tutti dal vivo, con anche ospiti. Con abbiamo il pubblico live che farà applausi. Pubblico live. E siamo io, Jacopo, ciao. Andrea, che ha una faccia un po' strana. Non lo vedo mai in faccia, infatti forse è una cosa positiva. Buonanotte. E Roberta, che purtroppo... Ciao a tutti. Bentrovati. Abbiamo costretto. Esatto, contro il giudizio del medico. Suicidio. Andrea, vabbè, evitiamo. E dicevo, puntata 19, parliamo di un film molto bello per me. I bambini, se smettono di giocare davanti a me, è meglio. E il film è del 2006 e si chiama Crank ed è uno dei migliori film d'azione della storia. Non ci sono commenti di gente arrabbiata. No, aspetta, ce n'è un altro che commenteremo in futuro, che è il miglior film della storia. Questo era... Il miglior film d'azione della storia è Die Hard. Punto. Ok. Questo è uno dei film migliori... E The Raid. Ok. Questo meglio. È uno dei migliori film d'azione della storia. Allora, Crank è un film del 2006 diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor, che lavorano spesso insieme, ma non hanno fatto una sega a parte questo. In realtà hanno fatto anche Ghost Rider 2, che forse era meglio se non l'avessero fatto. Sicuramente. E hanno fatto Crank e Crank 2. E quindi Crank, fin d'azione, il cui protagonista è... come cavolo si chiama? Chev Chilios. Chilios, interpretato da Jason Statham, quando era già famoso però, perché mi sa che aveva già fatto tipo The Snatch e tutte le minchiate. Ah, sì? Sì. E poi altri attori che non contano niente. E, il film è costato, mi pare, 12 milioni, sì, e ha guadagnato 43. Vabbè, più o meno, c'era vicino. E quindi sì, è andato molto bene. E la critica in realtà gli ha dato appena la sufficienza. E ha guadagnato un sacco, nonostante sia stato tipo super censurato, perché è pieno di, insomma, parolacce e di scene porno e di scene un po' di violenza spinta. Quindi ha tipo il rating 14, credo. Okay. Sì. E, però nonostante questo è andato abbastanza bene. E praticamente narra di questo killer che viene avvelenato da un veleno cinese, diciamo, high tech, come dicono loro, e, il cui funzionamento non è uno spoiler perché anche nel trailer, mi sa. Sì, c'è anche nel trailer, però sì. Vabbè, praticamente il veleno fa sì che... diciamo, agisce sul sangue e sul sistema cardiaco, sui recettori adrenergici. Vabbè, senza stare a dire al dottore qua che dice vabbè, ti fa sta palla. Dobbiamo dire un po', se non fa rubrica sapio è proprio sboccata. Vedi? Infatti sì. E... mai mezze misure. Ma infatti il contesto qual era? Perché abbiamo visto questo film nel 2006? Allora, vabbè, si confà la sboccataggine al film. Vabbè. Grande quota sapio. E quindi fondamentalmente lui non può mai fermarsi, altrimenti muore perché il cuore smette di battere. E fondamentalmente questa è la premessa divina per un film d'azione, cioè il fatto che è una scusa come un'altra per non far mai fermare l'attore e il protagonista e farlo andare come uno stronzo per tutto il film. Ed è geniale. Ce lo dici tu. E allora, noi in realtà non volevamo vedere questo film, ma volevamo vedere... praticamente, come forse avete sentito la puntata Sapio, anche se qua ho visto già dal pubblico che quasi nessuno l'ha sentita. Però no, la più popolare del podcast. Non è vero. Però vabbè, la puntata più popolare per le donne. Forse. Beh, sempre più popolare, Quote Rosa, per questo film poi che abbiamo visto stasera. Quote Grigie. Avrebbero molto da dire. No, e quindi abbiamo visto un film Sapio e insomma per pareggiare i conti abbiamo deciso di far vedere a Roberta un film anti-sapio. No, un film d'azione, io volevo un film d'azione d'autore, ma purtroppo me l'hanno bocciato. E... splatter d'autore. Ah, beh, non è che te l'hanno bocciato, che avevano già visto. Vabbè, me l'hanno bocciato e quindi abbiamo ripiegato su Crank, che in realtà è spettacolare. E che altro posso dirvi? Quindi non è l'esordio di Statham, ma comunque gli ha, secondo me, l'ha un po' lanciato nei lavori futuri. Insomma, l'ha platinato come icona d'azione. L'ha stellato come icona d'azione. Quanto cazzo sei stato? Esatto. Grazie per i suggerimenti del pubblico, apprezzati. E niente, in realtà non ho altro da dire, perché sono io che ho proposto questo film, non volevo bruciarlo ai miei ospiti. Quindi sentiamo che cosa hanno da dire. Jacopo. Io? Eh sì. Sei a tua. Beh, un film, come dire, letteralmente a cardiopalma, no. Diciamo che è quello che mi aspettavo dalla descrizione che mi avevi dato, cioè dove non ci si ferma un secondo, il regista che pure penso si sia fatto di cocaina per la metà del tempo, forse anche tutta, non lo so, c'è una scena terrificante, tutte le scene con la tizia, con l'interesse femminile. Ma perché secondo me sei bigotto, perché alla fine, cioè lui esagera in tutte le direzioni, a te dà fastidio solo quella sessuale. No, allora, quella lì mi dava fastidio all'inizio, perché pensavo, ok, cioè va bene il resto, ma il resto, diciamo, di consensuale, di, come posso dire, di avanguardista, qualcosa c'aveva. Che cazzo stai dicendo? Che cazzo, cioè... No, io invece me l'aspettavo, per dire. No, non è che non me l'aspettassi. Anzi, è arrivato anche... Però lui doveva fare tre cose, violenza, sesso e droga. Quelle due le ha fatte, cioè, dipende anche come le fai, cioè, tutti l'imitazione fanno... È entrato in un supermercato al minuto 6, È vero. Con una macchina. Con una macchina. Perché no, magari chi ci ascolta non... Ah, bellissimo. Mi deriva l'incomodità del distributore di giornali. Per esempio. Cioè. Sei bigotto. Pensare... Vabbè, sono bigotto. No, però poi, come dicevo prima, mi sono ripreso, perché c'è una scena dopo che mi fa... Senti, ma hai notato giusta? Tutte le inquadrature che vengono tutte... Mi hanno fatto molto vomitare, sì. Praticamente il regista ha ben deciso di girare il film normalmente per tutte le scene, ma nelle scene in cui, diciamo, lui si pompa, lui si cranca, e ha deciso di girarle un po' così... A mano. Un po' così, infatti. Cioè, decide di non stabilizzare. Non stabilizzare, e poi userà le telecamere, quelle anni 2000 digitali di merda, quindi le può mettere dove cazzo gli pare. Però c'è, cioè, tutti gli angoli a casaccio, le scene, la scena quella in ascensore dove non si capeva se le luci erano diegetiche, per usare la parola sapio. Visto non so se hai notato, ma l'orizzonte non è mai dritto. Mai. Ma è spesso storta la telecamera. È sempre storta la telecamera, senza un motivo. Cioè, non è che vuole suggerire un senso di, boh, di, non so, di qualcosa di strano. Esatto. No, cioè, lui che va veloce. Non è vero, è il senso di... È adrenalinico. Questo è l'aggettivo, secondo me. Adrenalinico, certo. Va bene. Andrea, ci vuoi aggiungere qualcosa? No, grazie, non ci tengo. Andrei mi ha fatto schifo la prima volta che l'ho vista, e mi ha fatto anche schifo stasera. Non ti è piaciuto questo film? No. Avresti preferito un altro film d'azione? Tipo Die Hard? O The Raid? O Predator? Sì. Predator? What? Predator, quello con Schwarzenegger. Quello bello muscoloso. Capito? Non c'è presente. Grosso è Chinatown. Correggeremo. Episodi futuri questi. Va bene. E adesso sentiamo direttamente la quota sapio. Salve a tutti. Allora. Ari, salve a tu. Vai, io saluto le persone. Belle d'occhio. Ciao a tutti. E allora, cos'è di questo film? Mi ha colpito positivamente, nel senso che io mi approccio a questi film con una quota importante di scetticismo. Ciò nonostante mi ha colpito positivamente, nel senso che, pur non essendo, sottolineo come ho detto l'altra volta, il mio genere, virgolettando, cioè non è un film che sceglierei di vedere, però l'ho apprezzato e vi ho trovato degli spunti interessanti. In primis il discorso telecamera, che sembra una cosa un po' da videogioco, o nel senso, diciamo, peggiore del termine, scusami Jacopo, un po' da videogioco anni 2000, un po' posticcio, però... mi ha colpito e soprattutto rende l'idea del film, cioè che è quella di dire, bene, io non mi devo fermare perché ho questo veleno che mi fa fare questa cosa, se mi fermo muoio e quindi la telecamera mi insegue. E quindi vede, cioè, come se noi vedessimo. Comunque è peggio vedersi da di persona. È come se noi vedessimo con gli occhi e con la testa, okay, e col cuore del protagonista. Dici? Io questo. Scusa, non ho capito. Ero è peggio vedessi di persona, perché di persona poi uno, capito, fa le faccette. Le faccette? Sono... io faccio lo stesso, le faccette. Se uno si vuole meno, vabbè, no, noi vediamo. Vabbè, però la cosa bella è che tu guardi il mondo con gli occhi del protagonista. Cioè, sì. Ma infatti solo all'inizio. Il film comincia subito così. Scusate. Ecco, questo l'ho apprezzato. No, poi no, ovvio ci che sta. Ci sono molti... abbastanza stereotipato come... come film, ma è bello anche per quello, perché c'è una figura femminile assolutamente... Infatti volevo chiederti, cosa ne pensi della figura femminile? Beh, è il perfetto oggetto che è accanto al boss, la donna oggetto, non parlano quasi per nulla, quando parlano dico cose molto stupide. O fanno domande. La donna di Statham è interpretata, esatto, da Amy Smart, che in realtà io conoscevo solo per Scrubs. No, ah, è vero, però ha fatto tantissimi film. Ecco perché mi sembra un visino... noto. Ha fatto tantissimi film e che io tra l'altro ho visto, ho visto solo Red Race, per la idea. Lei è molto okay, bella, però sì, lei è la donna un po' soprammobile, poi vabbè, se vogliamo vederci un guizzo di... cazzo di film, dobbiamo fare il podcast. Sì. Partecipazione mica... finale, ma rimane... rimane un film di serie B anni 2000, comunque. Ma non è serie B non questo. Non è serie B, nel suo genere non penso che sia, non me la sento dire. Ha un budget da 13 B. milioni, ti sembra serie B? Serie doppia. No, è... non è un frigorifero. Non è un cassa energetica B. No, nel senso, comunque... Ma sai, è un po' trash, posso dirlo. Sì. Passatemi il termine, però... è bello anche perché è trash. No, ma io non, cioè, dico serie B, io non dico serie B in maniera così. Cosa, cioè, che voi mi avete insegnato, perché se io avessi visto questo film 3 anni fa avrei detto che schifo, però... Hai imparato qualcosa? Sì, impari a vedere un film non soltanto con il tuo schema di film bello, cioè film che deve passare un messaggio, film di un certo tipo, eccetera, eccetera, canonico, ma un film che... No, questo pur è un nel... film d'azione e l'unico messaggio che deve portare è intrattenimento. Ma infatti io non dico serie B in senso negativo. Ma serie B vuol dire che è un film con un budget ridotto, con un regista alle prime armi o con cosa. Questo non è serie B, questo ha Jason Statham, che comunque... in questo film è stato preso perché è lui il film da... cioè, lui dopo di questo ha fatto tipo I Mercenari, per dire. Cioè, lui è una delle icone dei film d'azione dei nostri diciamo anni. Diciamo che questo, che non so come spiegarmi, è un film più ispirato ai film di serie B, mettiamola così. Cioè, più tipo su quella che vuole. Ma no, secondo me no. Anzi, secondo me è proprio l'opposto. Perché lui fa quelle scelte... consapevolmente, cioè non è che lui vuole imitare un film di serie B, non è Rodriguez che dice io prendo i film splatter di serie B e lo faccio, no, lui dice io prendo una situazione allucinante, piena di adrenalina, di movimento e cerco di rappresentarla, cioè lui non l'ha fatto con l'idea di omaggiare una serie no, B, non omaggiare. Lui l'ha fatto per dare un messaggio che è quello di adrenalina, di impulsività, di azione, di... capito? Cioè, non è un serie B in senso stretto. Poi alcuni elementi magari sono in comune. Il fatto che, tipo, alcune volte viene un filtro di merda con i colori di merda è molto simile ai film tipo anni 80. Però non è per quello che è stato fatto. Cioè, la scelta è ponderata. Cioè, lui... No, ma questo non lo sto mettendo in dubbio. Secondo me... cioè, allora, non voglio fare il negativo, perché alla fine c'è, cioè, un film d'azione, va visto come un film che mi sono divertito, mi ha intrattenuto. Però, cioè, secondo me poteva fare scelte migliori per raggiungere l'obiettivo. Tipo? Vabbè, è una scelta artistica, non può essere migliore o peggiore. Cioè, lui fa quello che gli pare. E non puoi dare un giudizio soggettivo su una scelta artistica. Semplicemente... puoi solo dare un giudizio soggettivo. Tu però lo stavi oggettivando, sì, no, nel senso... proprio perché puoi dare solo un giudizio soggettivo, dire poteva fare meglio... Non puoi giudicare una scelta artistica, nel senso che, cioè, secondo me lui ha voluto far così e di fatto è abbastanza mirata come cosa, cioè nel senso è riuscita come cosa, nel senso lui, la sua scelta di azione, sì, è quello che tu provi quando guardi un'inquadratura fatta a culo, Cioè, non è per dire. È come. Non mi ricordo com'è quel. Come si chiama quel film horror in cui è tutto girato con la telecamerina? Ah, Rec. Esatto, è come dire Rec. È un film che sembra un B-movie perché è tutto registrato con la camerina, però non è così, è così perché ha una scelta appunto del regista, e qua è uguale, cioè lui lo gira tutto così appunto per dare quell'idea lì. Boh, Andrea. Fatto, ok. Andrea, non ti è piaciuto? Ma mai detto niente. Fatto, cioè, fa ridere. Fa ridere. No, è carino anche perché secondo me alcune parti non si prende molto sul serio. Questo è vero, infatti le parti migliori sono quelle. Secondo me alla fine, verso la fine si prende un po' più sul serio, cala un po' il ritmo. Un po' come, cioè, una botta iniziale di adrenalina letteralmente e poi la, come si dice, il periodo refrattario, non so come si dice in gergo. E sul finale mi sono accorto oggi che c'è una scena che è poi citata in The Losers, che fa Chris Evans. Infatti, cioè, quella scena con la mano a pistola. Sì, sì. Mi sa che è uscito prima questo, però non lo so. Ci guardiamo. Vedremo. Ma boh. Forse il finale è un po' sottotono, sì. Sinceramente. Mi ha lasciato. Sì, devo dire, cioè, non mi ha lasciato emotivamente, non mi ha soddisfatto, però da un punto di vista. Cioè, dico, cazzo, sto film ha detto una cosa e l'ha fatta. Cioè, nel senso, ha detto, questo fra un'ora e mezza è morto, e quello un'ora e mezza dopo, scusate lo spoiler, è morto. Cioè, nel senso, questo. Forse. Forse. In realtà no, perché c'è un sequel, quindi magari non è morto. Però, cioè. Il fatto che lui all'inizio non si sappia, cioè io pensavo che lui sapesse cos'era quella droga. Il fatto che lui non lo sapesse, per me magari dico cazzo, sarebbe stato figo se lui lo sapesse e gli spettatori no, fin dall'inizio, così piano piano metti insieme i pezzi e ci arrivi. Però è diciamo in linea col film perché tu rimani con lui, cioè rimani con quello che sa lui, lo sai tu. E alla fine quello che dice lui che voleva fare lo fa e fine, cioè poi finisce il film, che è una cosa rara comunque. Sì, lo spettatore è posto sullo stesso piano del protagonista in tutto, in realtà, nelle inquadrature, nel gestire il dipanarsi del film. Ed è un film, a mio avviso, che non pensa, fa, cioè veramente un film d'azione, esatto. Nel senso etimologico del termine. Sì, sì, sì. Rispetta il patto, diciamo, con lo spettatore che va a vedere questo film. Quindi sì, cioè ripeto, mo per trovarci i peli nell'uovo, ok, però intrattenermi è intrattenuto. Esistono film d'azione più pensati, però questo è questo pensato. È più azione. Questo è più azione e meno pensiero. Pensate, ah, nel senso che c'è, cioè, la scelta più artistica, secondo me. No, è più questa, pensati nel senso di vabbè, che magari lo esigono, c'è più. C'è più trama, c'è coreografia, più trama, psicologia. Ma no, ma questo è un pretesto, è un pretesto per farlo correre. Mm-mm, esatto. Sì. Cioè, io ho apprezzato questo. Questa è la bellezza e la genialità di questo film, secondo me. Anche gli effetti speciali di merda ci stavano benissimo. Cioè, e se ci pensiamo, forse anche il veleno lì che mima l'azione dell'adrenalina, cioè non penso che sia poi così casuale, magari ci vedo io qualcosa no, in più. No, ho letto il 2 un po' più campato in aria, però sì. Ok, vedremo anche il 2. Non no. Vedremo il 2. No, nel senso io in privato vedremo. No, in privato guarderò. Ok, perfetto. Andrea si sterrà. E basta, io non ho nient'altro da dire, quindi io avevo qualcos'altro, mi sono scordato e niente. Mi sa che la prossima volta però ci tocca un film sabbia, da quello che ho capito. Ah, tu volevi fare l'addendum il no. No? Che addendum? Niente, ah. Charlie. Sì, film di magia. Sfide. Ah, sì, sì, c'è una sfida che ho vinto. Prossima puntata, vuoi farla adesso? Devi dire che ho vinto. Pensavo, vabbè. Ah, hai vinto quella sfida là. Sì. Ah, vuoi fare l'episodio dopo? Vabbè, no, vabbè, facciamo ma adesso. Ma questo esce. Ah, cavolo, volevo far uscire prima quell'altro. Vuoi far uscire prima quell'altro? Posso no, dire ormai una cosa del film che mi è venuto in mente adesso? I colori, che dite? A me quella scena con i colori scoppiati in realtà è piaciuta. Anche a cioè, me. Adesso ci ho ripensato, ho detto è un bel modo di usare le camere digitali di merda e basta che alzi la saturazione e viene fuori l'immagine sparata e basta. No, mi ha ricordato una cosa brutta, molto cosa? È che lui ogni tanto quando si fa... Abbiamo anche fatto un podcast su Petty. Su cosa? Mandy. Ovviamente. Vabbè, ma Mandy è per un altro motivo. Mandy è bellissimo. È proprio scoppiato lui. Mandy è bellissimo. Per te lo so che è un evento drammatico, ma prima o poi ti renderei conto che... Gran film. Che è migliore, la migliore interpretazione di Nicolas Cage, tra l'altro. Te lo voglio ricordare. Guardate Mandy, ricordiamo ai nostri ascoltatori. E comunque abbiamo nominato Nicolas Cage in episodio, quindi non devo metterlo nel titolo come l'altra volta. Ah, che se non lo nomini devi avvertire... No, metto nel titolo come l'altra volta. Apprendista stregone senza Cage, okay. E non c'è Cage in episodio. No, che volevo dire... Quindi vogliamo dire adesso, diciamolo adesso. No, beh, non diciamo adesso. Avevamo scommesso su quale... sti cazzi, ormai è tardi. Su quanti, su quante scene vagamente omosessuali avremmo notato nel film. È una cosa molto brutta, molto brutta, dire, molto pregiudicata, l'ho scelta io però, sì. Perché c'è questa, diciamo, puntata di American Dad dove scoprono dei tizi un copione per un film di Fast and Furious dove il 90% delle scene sono scene di sesso omosessuale, che più o meno è quello che succede. Sì, sì, infatti la portano da un produttore, il produttore toglie le scene e esce fuori un film di Fast and Furious. Sono più momenti romantici con lui che non con lei, è vero, che fa abbastanza perché ridere. Per adesso il film è che questi due si odiano e devono lavorare insieme, però si amano, capito? Sono sempre queste scene, questi battibecchi. È tutto un flirt, praticamente. È tutto un flirt, esatto. La metà dei battibecchi sono loro che flirtano. Ma ne parleremo. Ma ne parleremo nell'episodio, nel prossimo episodio. Senza Andrea. Allora, avevo scommesso appunto su quante scene, in maniera anche omofobica, quindi mi dissocio, vagamente omosessuali. Stop. Ci sarebbero state... In questo film. Cosa stai guardando? Io ho detto 3. Ah. Salla ha detto 6. Andrea ha detto 2. Roberto ha detto 3. Cristiano ha detto 4. Alla fine ce n'erano 7. Minchia. Che abbiamo contato. Abbiamo contato insieme. Quindi non è stato. Comunque avrebbe potuto pilotarla lui. Quindi non cambia un cazzo. Ho ragione io. Come al solito. Quindi Salla va a 6. E comunque parleremo di Obsession Show la prossima volta. No, l'unica, l'altra cosa che volevo dire è prossima volta mi sa che ci tocca un episodio sapio, mi pare di aver capito. Io sono prontissima. Una cosa recente femminile. Femminile. Ma io adesso sto guardando una serie TV super femminile che mi sta piacendo tantissimo. Ecco, vedi, scopri nuovi lati del mondo. Niente. È una serie TV da donna. Killing Eve. Guardate Glow. C'è tutto un... carina. Guardate. Guardate Glow. Molto basta bella. Guardate Glow. Non ci paga Netflix. Netflix. Quindi puntata sapio e basta, quindi puntata sapio e femminista. Per cui io starò malissimo. Sono bravi detto. Però con calma, perché adesso abbiamo tutti le vacanze, tutte le nostre... Non è vero, finiscono. Io ho il 17. Esatto. Va bene, niente. Grazie di averci seguito. E come sempre ci vediamo il prossimo sabato. Ciao ciao. Ciao. Adios.